Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Viva i pensionati, pensionati all'attacco. Noi ci faremo sentire, tutti dovranno capire, noi pensionati siamo svegli per reagire. Del Piero, contro Chapman, Del Piero, destro-sinistro. Connor Chapman lasciando il pallone, Del Piero ci riprova, Del Piero! Il gol! Ha segnato Alessandro Del Piero, un'azione che sembrava persa, è riuscito a rianimarla Del Piero e con la classe del grande campione ha messo dentro la zampata dell'1-0. Minuto 36, esplode l'Allianz Stadium di Sydney. Pensionati, sveglia all'attacco! Franco Piantelini, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia. E il partito dei pensionati azzurri o azzurrabili conta da oggi un nuovo iscritto. Da mattina ora italiana si apre il campionato australiano, Sydney Newcastle Jets 2-0. Del Piero segna il primo gol e serve a Chianese, che non è italiano, si chiama Joel, l'assist per il secondo. Quindi dopo Totti, di Natale, Tony, ecco anche Del Piero che magari potrà bussare alla porta azzurra. Pierluigi Pardo, buongiorno, come va? Benissimo, anche Del Piero benissimo, eh. Perché non portarlo in Brasile? Non ne possiamo portare 46, però la domanda, almeno per un attimo, è divertente, è una suggestione, insomma. Io credo che Del Piero, chiaramente, nel fare una scelta da cittadino del mondo, quasi da esploratore, di un certo tipo, ha preso anche una decisione definitiva sul suo futuro. Io credo che Del Piero non sia ovviamente un'ipotesi minimamente in agenda. No, certo, certo. Però insomma è giusto celebrarlo per quello che è stato e per quello che è ancora, insomma, no? Non soltanto per il passato ma anche per il presente. Ma sicuro, uno dei miei idoli nel modo di intendere il rapporto e l'approccio con la nazionale del suo paese, naturalmente, sembra stato David Beckham. Per l'Inghilterra sarebbe andato a giocare anche a nuoto in qualunque parte del mondo attraversando l'oceano con gli squali. Sì, assolutamente. No, ma io stiamo parlando di leggende, dai. Poi su Beckham, secondo me, c'è un grande equivoco di fondo, nel senso che Beckham è troppo bello e questo suo essere molto bello ha finito per farlo essere tante altre cose. Vero, ma in realtà è stato un grande giocatore, non a livello dei top 20 della storia del calcio mondiale, però insomma, nella storia degli ultimi 20 anni della nazionale inglese, Beckham è uno dei giocatori sicuramente più importanti. Qualche volta, insomma, sembra soltanto così un fenomeno di marketing o uno straordinario sex symbol. 800 un po' come 24, noi, gente. Un po' come te. No, come noi. 800 24 00 24. Per gli ascoltatori, naturalmente, li convochiamo tutti anche oggi. Poi parliamo, stiano tranquilli, anche di basket. Parliamo di motori, moto mondiale, punti di penalizzazione, punti della patente di Marquez, tolti uno. E questo ha fatto molto discutere. Però io vorrei continuare con un altro argomento da buttare lì al mio amico Pardo. È un venerdì di quelli che aspettano una nazionale in questi inutili amichevoli con la Danimarca. La sentenza del Milan, che probabilmente non ci sarà, perché qui c'è una soluzione geniale, ovviamente tutta italiana, ci potrebbe essere un rinvio dell'udienza in modo da permettere al Milan di aprire lo stadio con l'Udinese e da avere qualche giorno in più per modificare o taroccare. Fate voi, enorme. 800 24 00 24. Aspettiamo anche Roma-Napoli, ma questo è un po' più lontano. Quasi tutti i fiumi, caro Pierluigi, mi accorgo che in questi giorni portano a Torino. Ad esempio c'è Marchisio che apre le porte a Prandelli e io metterei, no, devo chiamare il nostro amico Ettore da Milano, tassista, perché l'esperto delle scommesse è lui, però metterei 2 euro su Prandelli, prossimo allenatore della Juve. Sentiamo Marchisio. Ora ci stiamo preparando per una competizione molto importante, che è quella del mondiale. Poi in futuro sicuramente le strade cambiano sempre per tutti, quindi non si sa mai chi ci si possa ritrovare nel club. Non ci siamo dimenticati di Ambrosini, caro Giari da Prato, iscriviamo al partito dei pensionati anche lui. Di Prandelli alla Juve cosa ne pensi? Che è un'ipotesi, io credo che Prandelli andrà o alla Juve o al Milan. Mi sembra molto difficile, le altre soluzioni mi sembrano molto difficili, quindi credo che sia destinato al Milan, sinceramente, però credo che chiaramente Conte è un po' un punto interrogativo, nel senso che l'abbiamo parlato spesso in questo inizio di stagione. certamente Conte sta mostrando qualche segno di nervosismo, io credo anche abbastanza controllato, cioè credo che sia abbastanza Conte, come ho più volte detto, che stia cercando di creare in certe volte delle condizioni per poter aumentare il livello di intensità dei suoi uomini, però insomma su alcune posizioni magari qualche divergenza ci può essere stata e ci potrebbe anche stare in maniera assolutamente legittima da parte di Conte la voglia fra un anno di fare un'esperienza all'estero. In quel caso allora credo che Prandelli tornerebbe anche fortemente in lizza per la Juve, però io credo che sarà un ballottaggio. Sì, sarà un ballottaggio, però io sono sempre convinto che Conte sia un allenatore integralista o settarista, come un giorno mi disse Andrea Zorzi a proposito di Velasco, cioè uno che crea una setta, spreme tutti, ti chiede qualunque cosa, tu gliela dai perché devi vincere, perché sei affamato, perché ti conviene, e però secondo me allenatori di questo tipo, in questa categoria, ne metto naturalmente Mourinho, possiamo andare anche a Sacchi, a sì, tutti sì, quelli che vuoi, secondo me questi durano 3 anni. 800 24 00 24, c'è il tuo appuntamento preferito, caro Pardo. Strane. Traffico. Tutti convocati. Luigi Pardo, c'è un affare che si ingrossa. Cosa? L'affare Pogba, dopo le parole di Agnelli. Se arrivano gli arabi non si può trattenerlo, gli arabi o i russi o chi per essi. C'è anche un cartellino del prezzo, 45 milioni, e c'è, già lo vedo, lo immagino Raiola che fa la ola. Agnelli. Italy is no longer a final destination, but is a transit destination. I'm trying to think what will be of us in 2 or 3 years' time if we get a massive offer for one of the best talents we've got today, Pogba, you know, the French 20-year-older, will we be able to retain him? I don't know. I don't think at the moment we have the strength to retain such a player. I don't know, I don't think. Pardo, translation, please. Ottimo inglese, tra l'altro, da parte, sì, del presidente, ma il calcio italiano non è più una destinazione finale, è un luogo di passaggio, mi sembrava un discorso abbastanza condivisibile. Sì, e quindi ognuno, anche un grandissimo giocatore, ha un prezzo. Insomma, mi sembra che al di là, insomma, della, chiaramente delle speculazioni che dopo una frase del genere, ma lo saprà anche il presidente della Juve, no? Che una frase del genere inevitabilmente poi crea dibattito e crea pissi di mercato, è ovvio che sia così, però insomma il discorso non fa una piega, cioè non abbiamo, ma non, questo non riguarda soltanto la Juve, non abbiamo in Italia delle società in grado di riuscire a competere a certi livelli, per cui se arriva un signore con 45 milioni di euro per Pogba parte, o se non parte rimane, ma bisogna fare altri sacrifici, ma credo che sia un discorso di grande realismo, può essere un po' triste perché non siamo più noi padroni del vapore o del motore, ma insomma sta di fatto che è così. C'è un altro motivo per cui Mino Raiola fa la ola, un altro suo assistito, quello di cui non parlo come ben sai, quello che voleva scappare dalla nazionale, che è stato bloccato sulla scaletta dell'aereo da Prandelli, ragazzo vieni qui, senti cosa ha detto Prandelli. Per quanto riguarda la seconda domanda su Mario, cosa bisogna? Bisogna di sdrammatizzare un po' tutte le situazioni. Mi sembra che forse sempre comunque il personaggio diventi ancora sempre più importante rispetto all'uomo e al calciatore. Quindi quello che gli possiamo dire è di vivere serenamente i propri 23 anni e se ci sono dei problemi vanno affrontati e non vanno nascosti o fuggiti, insomma. Tu lo sai, Pierluigi, che Torino Vinova è stato per anni territorio di caccia di Federico Ferri? Assolutamente. Da Sky. Ciao Federico. Ciao, buongiorno. Territorio di caccia mi preoccupa la definizione, no. Sembra che si riferisca ad altre situazioni. Infatti ci riferiamo ad altre situazioni. Come va, Fede? Buongiorno, mi fa piacere essere con voi. Federico... Si lavora, si produce? Che stai facendo? Stiamo lavorando per le prossime partite, visto che abbiamo la fortuna di avere una settimana di sosta, anche se comunque poi a noi piace sempre il campionato, perché alla fine la domenica è poi un po' malinconica, no? La domenica è drammatica, poi non so cosa ne pensate voi, ma questo venerdì, martedì, che è perfetto dal punto di vista della gestione delle energie per gli allenatori, quindi è chiaro che questa è la cosa più importante, però di fatto diventa una cosa drammatica. La nazionale in amichevole poi non riesco a guardarla, dico la verità. Ho detto prima questi inutili amichevoli con Danimarca, confermo, sottoscrivo, eccetera, eccetera. Partite totalmente inutili. Soprattutto in un momento come questo, che ci inducono al coito interrotto del campionato, che è qualcosa di nocivo per la nostra salute. Comunque, Federico Ferri, Ti iscrivi anche tu al partito dei pensionati? Del Piero sei iscritto, Totti sei iscritto, Di Natale pure, Toni anche, e ai mondiali andiamo. Guarda, mi iscrivo tutta la vita al partito dei pensionati intelligenti. Sì. I nomi che hai citato certamente ne fanno parte, ne fa parte certamente Totti, ne fa parte certamente Del Piero. Cioè non mi iscrivo a chi vuole stare in campo a tutti i costi, a dispetto dei santi e soprattutto a dispetto di se stesso. Credo che negli esempi che hai fatto, compreso quello di Del Piero, che è comunque forzatamente trovato un'altra dimensione, che non è certamente quella che oggi appartiene a Totti o Di Natale, comunque hanno anche età diverse, allora sì, perché quando sei supportato dal cervello, allora le cose funzionano e lo stanno dimostrando anche, no? I nomi che hai citato. Sì. Ma il livello di rapporti, perché insomma Federico, chi lo segue lo sa, è un attentissimo osservatore di cose torinesi, di cose di Juve soprattutto, insomma, il livello di rapporti, insomma, si è rimarginata questa ferita secondo te nella testa di Del Piero, di non aver avuto... No. No, ma è giusto così, né nella testa di Del Piero né nella testa di Andrea Agnelli, perché c'è qualcosa nel rapporto che si è rotto, no? Al di là di come è andata, perché poi la cosa strana di questa situazione è che in fondo probabilmente entrambi volevano la stessa cosa, no? Del Piero aveva capito dentro di sé che la storia è arrivata alla fine e sicuramente lo sapeva Andrea Agnelli, e il modo in cui si è arrivati a quella soluzione che poi ha portato ad una distanza che non verrà più colmata fin quando ci sarà questa dirigenza, Del Piero non farà più parte della storia della Juventus, e fin quando ci sarà questa dirigenza nessuno di questi dirigenti si sognerà di richiamare Alessandro Del Piero per qualunque ruolo. Certamente. Federico, toglimi un'altra curiosità: i rapporti invece Del Piero con Conte, perché io penso che non si sia rimarginata neanche la ferita del suo orgoglio dopo una stagione passata, non perché era in panchina, quanto per quei continui dispetti. Vatti a scaldare all'89esimo minuto, entra in campo al secondo minuto di recupero. Secondo me è stato trattato male Del Piero da Conte. Guarda, secondo me no, nel senso che io non penso che Conte abbia trattato male Del Piero per quanto riguarda la gestione tecnica, e penso che nemmeno Del Piero abbia qualcosa da ridire in particolare con Conte. Del Piero ha qualcosa da ridire con qualunque allenatore che non lo faccia giocare, ma non è un problema di Conte, e lui le scelte tecniche mai come l'anno scorso, come due anni fa, le aveva accettate. Credo che quello che c'è in questo momento di ferita e hai ragione tu a dire che c'è, Carlo, è legata al fatto di quello che non ha fatto Conte per evitare che la società si comportasse in un certo modo. Cioè Conte non ha mai preso una posizione, e sappiamo che Conte ha il potere per prendere delle posizioni nella Juventus, lo aveva due anni fa e lo ha a maggior ragione. Però poi forse lì, Fede, ha inciso anche la voglia di Del Piero di giocare, perché io sono perfettamente d'accordo con quello che tu dici, cioè credo che Del Piero non possa minimamente lagnarsi dal punto di vista tecnico. Conte ha fatto delle scelte eccezionali, l'ha centellinato molto, e cioè, nonostante Del Piero, penso alla punizione con la Lazio, è stato comunque decisivo, è riuscito comunque a ritagliarsi un suo pezzo importante di gloria anche in quello scudetto. Quello che qui è mancato completamente è stato un lieto fine di carattere dirigenziale, di carattere anche simbolico, insomma, quello che dice Totti, quello che ha detto Totti due settimane fa, insomma, comunque è quello che pensano in tanti, sì. No? Che ci sono bandiere Piero, che rimangono, perché... ma lo stesso discorso riguarda Maldini al Milan, non è che poi ma lo pensa anche Del Piero, Pier, perché se tu stamattina è uscita un'intervista di Del Piero su Quello dello Sport, sì, dove sostanzialmente, facendo i complimenti alla Roma per la gestione del caso Totti, per il rinnovo di Totti, il legame di fatto fino alla fine della carriera con Totti, ha anche sostenuto l'opposto per quanto riguarda il suo caso e per quanto riguarda il caso della Juventus. Però secondo me invece Conte poteva fare qualcosa da questo punto di vista, e credo che sia proprio questo il problema. Cioè Conte non ha preso una posizione, e ti dico la verità, probabilmente anche consapevolmente, perché in qualche modo è arrivato anche lui alla certezza che fosse ormai finita una storia che in qualche modo Del Piero tecnicamente non gli servisse più, Poi in realtà le scelte dell'anno scorso da questo punto di vista mi lasciano molti dubbi, perché Ventner e Anelka non hanno fatto più di quanto poteva fare Del Piero alla Juventus. Stavano seduti anche loro. Magari uno come Del Piero è più difficile tenerlo in panchina per 5 partite consecutive. Io da questo punto di vista Conte lo posso anche capire, e ripeto, non ci trovo niente di male. Il calcio è uno di quei territori della vita umana nella quale comunque però ragazzi, il io non valore... discuto la panchina, non discuto la scelta tecnica Del Piero sta in panchina, discuto le modalità di utilizzo, perché far entrare Del Piero come l'ultimo dei ragazzini al secondo minuto di recupero secondo me era offensivo, ma questa è un'idea mia. Vi voglio chiedere invece ancora una cosa, poi salutiamo Federico Ferri, invece Pardo me lo tengo ancora un po'. Sì, certo. Allora, tutta la vita tanto. Ormai hai scelto. Vuoi dire che siamo ormai una coppia di fatto? No, vabbè, insomma, nei limiti, molto virilmente siamo una coppia di fatto. Allora, la prossima Juventus sarà, secondo me, senza Conte, senza Pirlo, con Prandelli in panchina, Pogba non lo so. Federico. Beh, bello, hai messo qualche elemento interessante. Senza Pirlo penso di sì. Senza Conte non ci metterei la mano sul fuoco, ma sicuramente è una possibilità che ci sia ancora qualche turbolenza da quel punto di vista, ma credo che in questo caso Agnelli farà l'opposto di quello che ha fatto con Del Piero. Senza Pogba no, penso che Pogba resterà alla Juventus. Hai capito? Sì. Pogba resterà alla Juventus, secondo me, se non c'è un'offerta monstro. È chiaro che Raiola da questo punto di vista lo conosciamo, è un genio, ma è un procuratore che ha una certa propensione al movimento, no, dei giocatori. Quindi... Sì, ma c'è ancora un passaggio, Pier, da fare, c'è ancora il rinnovo multimilionario. Sì. E quello Pogba non l'ha ancora ottenuto. Dopo quello si otterrà la cessione. Credo che da questo punto di vista Raiola abbia sempre un percorso piuttosto chiaro con i suoi assistiti. Sì, secondo me non siamo ancora arrivati al momento della cessione, perché è un giocatore Pogba che con un'altra stagione alla Juventus, se non sia già questa, allora lì un altro discorso, può davvero diventare un giocatore con una quotazione infinita. Ora non voglio dire quanto Bale, però è un giocatore certamente che in quel ruolo ha pochissimi pari in Europa, in senso potenziale intendo, e quindi di sicuro può capitalizzare molto quella cessione, no? Però secondo me capitalizzerà prima un rinnovo e poi la cessione. Grazie Federico. Ciao Fede. Grazie a te Carlo. Ciao. E finché puoi salvati dalla coppia di fatto con Piero. No, è lui che si deve salvare, non hai capito? Io glielo ho detto mille volte. È trappola lui. Pierluigi, pensaci bene. Ciao. Ormai ciao. Non può più scappare, però Pardo, ce lo teniamo. Anche dopo la borsa. 800240024, voglio voi adesso, anzi vogliamo, io e Pierluigi Pardo vogliamo voi. Tutti convocati. Vuoi dire che siamo ormai una coppia di fatto? No, vabbè, insomma, nei limiti, molto virilmente siamo una coppia di fatto. Viene in mente una parola per definire questa scelta a sorpresa di quei due signori che stavano al di là del vetro, ma non si può dire. Ieri abbiamo fatto un grande lavoro, no? Nella costruzione di un'immagine di un certo tipo. Certo. Si sono chiamato Monica e Irene alla fine, insomma abbiamo reso... Ecco, oggi finito tutto in vacca. No, insomma teniamo... No? Vabbè. Bene. 800240024 è il numero verde, adesso tocca a voi. Leggo alcuni messaggi che sfiorano o che forse raggiungono, caro Pierluigi, l'onanismo calcistico, come chi mi contesta la definizione di inutile per Danimarca e Italia pensando al ranking. Sì, vabbè, passiamo alla cosa. No, passiamo... Scusa, grande rispetto, però no, ma poi il ranking quello, che? Quello che conta quello è il ranking UEFA. Bravo. Che riguarda le squadre, la classifica club, delle nazionali, chi se ne impippa, voglio dire. Esatto. 800240024, Gian Claudio, provincia di Agrigento. Sì, buongiorno. Io da Juventinissimo. Mi ricordo però che Antonio Conte, nostro grande capitano, Del Piero ha voluto lavare la fascia, se non ricordo male, no? Del Piero, scusi? Del Piero ha lavato la fascia, Antonio capitano. Sì. Del Piero ha tolto la fascia a Conte, fascia. Capitano, la fascia, sì, non la fascia destra o sinistra, la fascia di capitano a Conte, questo non può essere. Ma insomma, allora capitano della Juve Antonio Conte. Sì, e poi è arrivato Del Piero, sì, ma, e quindi lei dice vendetta. Questo non. Se lei allude a una vendetta di Conte, non credo proprio. Sì, cioè, lo escluderei. Lo escluderei. Credo anche Pier. No, io lo escludo categoricamente. È vero che nell'immaginario dei tifosi della Juve, il nostro amico potrà confermarlo, la figura che si è avvicinata di più a Del Piero per la storia degli ultimi 20 anni è certamente quella di Conte, insomma. Conte, c'è una canzone dei tifosi della Juve che parla appunto di Conte come di un capitano senza il quale non si va lontano, cito a memoria, sì. è l'unico non Del Piero che può aver avuto questo tipo di carisma all'interno, e non a caso, insomma, quando la Juve ha pensato a lui sicuramente per le qualità dal punto di vista tecnico, ma in quel momento di difficoltà della Juve era anche una scelta che poteva garantire un po' una luna di miele nel rapporto con i tifosi, sì. Un po' quello che hanno provato a fare l'anno scorso senza risultato la Roma con Zeman, c'è stato un grandissimo entusiasmo, Conte era un parafulmine perché era amatissimo dai tifosi, poi non ce n'è stato bisogno perché Conte è stato un fenomeno, la squadra da quando è arrivato lui ha vinto, però sicuramente dal punto di vista del carisma questo discorso c'è, e può darsi pure che nelle pieghe di due personalità fortissime come Del Piero e Conte ci possa essere stata una qualche forma di inconscia rivalità, ecco. Ma più di questo io non mi sento proprio di poter dire. Sull'inconscio non lo so, non lo sapremo mai. Io sul conscio lo escluderei categoricamente. No, risaliamo da Agrigento a Frosinone. Donato. Salve. Salve. Volevo proporre una strofetta che ho costruito sulla musica di Paolo Conte. Prego. Sì, vai. Devo cantare qualcosa io? Giulio, per la partita dell'Italia di questa sera. Vai. Vai. Azzurro se c'è l'Italia, il prato verde, azzurro se vuoi, azzurro ecco l'Italia, il cielo azzurro gioca per noi. E allora al nostro fianco la vittoria d'azzurro si vestirà. L'Italia indossa il cielo e grazie al cielo ancor più in alto andrà. Ma grandissimo! Maestro Vince Tempera, Ares Tavolazzi, veramente. Ha imparato a memoria. Lei è un neomelodico, ce lo dica tranquillo, lei è neomelodico, giusto? No, io sono un classico cantautore, seguo più la scuola genovese. Sbaglio, lei aveva anche composto l'inno del Milan? Cioè quello ho fatto un inno per il Milan, io ho la memoria lunga. Dello chef di Berlusconi. Però, lo faccia sentire a Pardo, che non l'ha mai sentito. Quale? Come? Lo faccia sentire a Pardo, il canterino del Milan. Allora fa Milan, quello lì, no? Aspetta, no, ma che quello lì? Senti, Pier. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, c'è una squadra che ti prende, spende fiato e non si arrende. Andiamo, corriamo, tutta a San Siro, applaudiamo i nostri eroi. Applaudiamo, non ricordo. Grandissimo. Poi forza. Lei lavora su commissione oppure ha una fede rossonera? Cioè, se io le commissionassi, che ne so, l'inno di tutti i convocati del Southampton, no? Tutti i convocati. Io da ragazzo ero tifoso di Rivera, quindi l'ho fatto volentieri. Diciamo, sì, però l'inno per tutti i convocati potrebbe... tutti convocati. No, questa non la conosco. No, devi inventarla lei. Tutti i convocati alla trasmissione, lei ci fa l'inno. Questa la posso fare, io scrivo anche per trasmissioni, me l'hanno commissionata una da allora, poco l'ho fatta. Allora aspettiamo l'inno di tutti i convocati. Con Piantanita mi siete d'accordo, Io avrei anche Tiki Taka, quindi potremmo fare Tiki Tiki Tiki Tiki Tiki Taka. Complimenti comunque, complimenti. Sì, grazie Donato, aspettiamo l'inno, poi Pardo la passa e paga, salda lui. D'accordo. Grazie. C'è talento artistico. C'è talento, c'è sostanza, sì. Loris, provincia di Milano. Eccomi qua. Vuole cantare anche lei? Vuole cantare anche lei? No, ci mancherebbe. Va bene. Poi non ho una voce adatta. Prima di tutto, intanto sappia che anch'io Valentino tutta la vita non ce n'è per nessuno. Mi dispiace farvi questo. Mi dispiace per mi dispiace devo andare. Mi dispiace devo andare. Gli altri valentiniani. Sì. Ecco. Una piccola parentesi per quello che riguarda Del Piero. Sì. Dal mio punto di vista, io credo che il padrone di un'azienda, di qualsiasi ditta di attività che abbia, è quello che caccia i soldi. Sì. E Agnelli, credo che questa cosa non sarebbe successa se fosse stato il grande Agnelli. Io dico, nella Juventus comando io, un personaggio come Alex Del Piero, una bandiera della Juventus, mi sembra strano che non si sia riuscito a trovare una collocazione adatta a quel personaggio. Ma no, come, ma abbiamo trovato a Nedved? Allora, lei ha parlato di, però Loris, lei ha parlato di professionismo e di professionalità estrema, no? Quindi il padrone dell'azienda, il calcio è una cosa che non è come produrre i prosciutti o le intelaiature delle finestre, un'altra cosa, entrano molte componenti in questo rapporto che non è esclusivamente professionale. È evidente che a Del Piero non si è voluta trovare una collocazione in società, ma anche questo non lo trovo sbagliato, perché non è scritto da nessuna parte che comunque una bandiera debba per forza continuare a sventolare. Continua a sventolare se ci sono delle ragioni, no? No, e poi c'è un'altra considerazione che Del Piero ha messo candidamente nella sua autobiografia scritta con Maurizio Crosetti, Giochiamo ancora. Già il titolo di quel libro racconta il fatto che lui si fosse trovato a quel punto di fronte a una decisione da prendere e avesse deciso di giocare. E chiaramente per poter giocare con una certa continuità, quel tipo di contesto alla Juve non era forse più... Sì, ma per andare avanti metti come dirigente? Ma per andare lì è mancato, come ci raccontava Federico, è mancata il la feeling, voglia. Ma certo. È mancata la voglia. Ma che non perché, è peccato, perché Del Piero poteva tranquillamente andare a farsi 2-3 anni sabbatici in Australia, in Inghilterra, in Brasile, e poi tornare con un ruolo d'ambasciatore nella Juve. Invece... Sì. Per quello che è lo stato dei rapporti, questa è un'ipotesi impossibile, fino a quando ci sarà questo tipo di gestione, insomma. Ma quello che dico io non è per forza peccato, nel senso che è giusto, no, che certo, una dirigenza faccia le sue scelte. Assolutamente, e come soprattutto, ti dico, soprattutto una dirigenza che è vincente, che quindi fino a questo momento le sta beccando tutte. No, ma non c'è niente di male. Esatto, non c'è niente di male. Insomma, le regole della gratitudine spesso nel calcio non esistono, insomma. E poi noi siamo qui, commentiamo, è chiaro che ci sono... i tifosi della Juve e non soltanto, che rimangono tifosi di Del Piero, e magari a qualcuno di loro può dispiacere il fatto che Del Piero sia così lontano e non sia parte del progetto di questa squadra, ma finisce lì. Poi insomma, non penso che il tifoso della Juve tifi meno per la sua squadra perché Del Piero è lontano, insomma. Finché le scelte saranno azzeccate e vincenti, alla fine Del Piero verrà rimpianto, sì, ma sì, verrà ricordato, ma dai, esatto. Esistono i DVD. Antonio Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno. Prima di fare la mia considerazione su Mandorlini, volevo farvi i complimenti. Un brano, non un brano, lei? Pardo. Pardo è una chicca che aggiunge veramente qualcosa in più alla trasmissione. A me piace tantissimo. Chicca è tanta roba, Ci vediamo. È mio cugino. Grande, lo vediamo domani alla Sagra della Patata a Leonessa. Sì, ci vediamo. No, è un grande. Grazie. Va bene, volevo dire, riguardo alla telefonata di Mandorlini, l'ho visto un poco, mi è sembrato che si arrampicasse un poco sugli specchi. Ha messo la chiesa, ha messo in mezzo, se vi fate risedire la telefonata. Comunque, il mio giudizio è che i tifosi del Verona, se dovunque vanno, prendono pietrate, sassaiole contro, vuol dire che qualcosa fanno. Quello che hanno fatto l'ultima volta. Antonio, però, non c'è una ragione nemmeno per un solo sasso tirato questo contro. Io la scusa, mi sono espresso male, però, fischiare durante un minuto di raccoglimento con i morti ancora nell'hangar, sì, li fa davvero. Mi fa schifo, fa schifo anche a me, fa schifo pure a me, ma però ripeto, non c'è nulla, io non voglio essere retorico perché non lo sono mai stato, non mi riesce neanche bene, però non c'è una ragione che giustifichi un solo sasso. Sì, e soprattutto, di fronte a dei problemi che esistono da una parte e dall'altra. Ieri Mandorlini ricordava che quella famosa canzone che poteva essere sembrata offensiva l'aveva cantata perché avevano subito delle violenze o delle intimidazioni a Salerno. Insomma, alla fine chiunque senti ti dice che c'è sempre qualcun altro che l'ha provocato, sì, io non entro nel merito, sì, no? Sì, sì, allora lì o si fa un punto, o si mette un punto, una linea, e si prova a cambiare mentalità, o se no si rimane tutta la vita a dire che ci sarà sempre una reazione perché prima c'è stata un'azione e non ne usciamo vivi. Possiamo fare come ci pare, a me francamente, con detta la romana, non me ne può fregare di meno per quella che è la mia realtà, però mi piacerebbe vivere in un posto dove l'atmosfera e il fatto di poter andare allo stadio sia vissuto in maniera più serena e più civile, e questa cosa non la si fa se non si mette un punto, se non c'è qualcuno maggiormente dotato di buon senso che dice va bene, è successo questo, incasso e non rispondo, andiamo avanti. Costruiamo un rapporto nuovo. Finché non c'è questa cosa e finché ci si continuerà a dividere in quello contro quell'altro, ma la squalifica di quello era più grande di quella di quell'altro, ma quello non ne usciamo più, capite che non ne usciamo più. Senti, comunque ribadisco, si può andare avanti anche così, Chicco, Ciccio. Ciccio? Sì, ti aspetto lunedì. Ah, sarei io, Chicco Ciccio? Certo. Chicco Ciccio è veramente quasi da guerrera, va bene. va bene, vi saluto, arrivederci, è stato bellissimo. No, vi continuo ad ascoltare, vi continuo ad ascoltare in radio. Ciao, grazie. Ciao. A lunedì, anzi a domenica con Giovanni Capuano, se non sbaglio, 17-19, sarò anch'io, credo. 800-24-0024, invece ci sarete voi. Poi ci sarà Dan Peterson, poi parleremo anche di moto mondiale. C'è una notizia drammatica relativa al mondo dei motori, perché è morta Maria De Viotto, è stata trovata senza vita questa mattina in un albergo a Valencia, pare per cause naturali. La ricorderete, la pilota che ebbe un gravissimo incidente provando una Marussi a vettura di Formula 1, perdendo l'uso di un occhio. Va bene, strade, poi di nuovo qui parliamo di molte altre cose. Tutti convocati. Matteo Bergamo. Sì, ciao Carlo. Ciao. Niente, io volevo intervenire sul discorso di Del Piero e anche in un certo senso di Pogba, nel senso che vabbè, sono tifoso juventino da una vita, non mi è piaciuto come è stato trattato Del Piero, perché comunque oltre a essere un grande campione è sempre stato anche un grande uomo. E mi sembra che il calcio stia perdendo un po' troppi di questi valori, di grandi uomini, di grandi personaggi, tutto per quello che è il business, ok? La Juve è un'azienda che sta andando bene, però boh, penso che anche per i giovani di oggi, ecco, si stanno perdendo troppi valori di uomini veri e di grandi campioni. Sì, ecco. Però hai ragione, ma non enfatizzerei questi, non userei queste parolone. Insomma, Del Piero è stato professionista, ha ricevuto anche molto dalla Juventus, non solo in termini economici. Poi, se diciamo non è piaciuto a nessuno questo addio, come è stato orrendo l'addio di Maldini al Milan, d'accordo, però io sono sempre dell'idea che è giusto che un club faccia le sue scelte, magari anche di rottura come in questo caso. Certo, un po' più di eleganza sarebbe stata auspicabile. Well, now they gave him his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao Coach Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Nastri di partenza per il campionato di Serie A, Milano sarà ora o mai più? Ovviamente, diciamo, il ruolo di strafavorito l'era data a Milano e Milano aspetta questo. Loro non penso che abbiano paura, ha detto Luca Banchi, allenatore della squadra, che vuole fare il finale scudetto, e Flavio Portaluppi, che il general manager, dice: io vorrei organizzare un finale scudetto. Quindi non hanno cercato di evitare il riflettore, tanto per dire, quindi non hanno paura di questo, che è un buon segno. Anche perché non mi sembrano inevitabili questi riflettori, li accende anche su Milano Simone Pianeggiare in CT della Nazionale, sentiamolo. È difficile, lo sappiamo, sulla carta è inutile negarlo, Milano è una squadra più completa, più attrezzata, un club che è strutturato ad altissimo livello ormai da tanti anni e quindi può essere sicuramente l'annata giusta, però sappiamo che il campionato italiano è un campionato che dà sempre sorprese, stimoli, vincere non è mai semplice, c'è grande qualità negli allenatori, ci sono idee, perché anche in un momento che è inevitabile, ci sono meno soldi, ma le idee in Italia ci sono, per cui credo che sarà un campionato ancora una volta competitivo e niente, noi ci auguriamo che ci siano ancora tante partite combattute come sono state lo scorso anno. Bah, sulla sorpresa, sul combattimento ne ho visto poco negli ultimi anni, coach. Siena ha vinto gli ultimi 1000 scudetti. Diciamo la verità che l'anno scorso Siena è stato quinto, sì, posizione in campionato, e poi ha vinto lo scudetto. Io non so chi avrebbe scommesso su Roma in finale, tanto per dire, o Reggio Emilia andare ai playoff, Brindisi a fare la Coppa Italia, o Sassari uscire al primo turno. Quindi ci sono state le sorprese, e ci sono, come dice Pianeggiani, ogni anno, e bisogna stare attenti, perché se, uguale abbiamo visto l'anno scorso, se non stai attento ti arriva la sorpresa non bella. Senti, quali alternative all'Armani, coach? Quali, innanzitutto Siena, perché noi Sport Italia abbiamo fatto, io e Niccolò Trigari, alla finale di... contro Varese, sì. E abbiamo visto una squadra forse un po' leggera per l'Eurolega, perché gli manca quel pivotone, quel giocatore di sostanza, il lungo tipo Ante Tomic, tipo Baines dell'anno scorso, quel giocatore che lì di mezzo dico c'è lui, ok, e quindi non hanno, però il mercato non è chiuso ancora, possono sempre adeguarsi alla situazione, quindi però per la Serie A Siena squadra molto tecnica, molto rapida, molto veloce, grandi tiratori eccetera, abbiamo visto loro non hanno perso neanche un colpo rispetto all'anno scorso, quindi anche se Varese non ha, dopo il primo tempo era 31-30 per Varese, nella finale della Coppa, Supercoppa, nel Varese ha avuto un crollo, gli manca un po' l'esperienza dei nuovi, devono capire che cos'è il campionato italiano eccetera, e poi gli manca Dunstan in una maniera paurosa, sì. Questa è una cosa, cioè, con tutto rispetto per Hassel, cioè, nessuno è Dunstan, poi ovviamente Sassari sarà una squadra, e Avellino, udite Avellino, e poi per ultimo nessuno parla di Cantù, ma Cantù Sornione con Sacripanti in panchina, una società solida, stanno a fare mercato, e per ultimo, non per scudetto non penso, ma la squadra che può sorprendere Virtus Bologna, perché c'è Vilauta lì che è una roccia, okay? Lui è veramente determinato come sì. presidente, Bruno Arrigoni come general manager, mago, Luca Becchi secondo me in panchina. Queste sono le squadre questa è la griglia di partenza di Coach Peterson, ma tanto noi ne parleremo venerdì prossimo, perché il coach è sempre con noi. Grazie coach, alla prossima. Ciao Carlo, ciao a tutti. Convocazione aperte 800 24 00 24, fino alle 15:20. Dopo Gera ci risentiamo. Tutti convocati. Due notizie agghiaccianti. Una è questa. Nell'anticipazione del New York Daily News sul libro Willman, scritto da due cronisti del Wall Street Journal, Sheryl Crow, ben nota cantante, ha ammesso di aver visto Lance Armstrong che si praticava una trasfusione di sangue su un aereo privato in volo verso il Belgio. Ricordiamo che c'è stata una lunga liaison tra i due, è stata a lungo fidanzata con Lance Armstrong. Ebbene, secondo questa anticipazione, Sheryl Crow non pensava, cioè Armstrong non pensava che la Crow all'epoca avesse interesse a rivelare alla stampa il programma di doping del suo team, e le aveva spiegato che si trattava di una pratica diffusa e utilizzata da tutti i ciclisti. Ce n'è un'altra ancora più agghiacciante, molto più agghiacciante, che riguarda Mauro Sant'Ambrogio, corridore che lo scorso maggio, esattamente il 4 maggio, test effettuato a Napoli nel corso del Giro d'Italia, era stato trovato positivo all'EPO. Ebbene, questa notte ha lanciato un tweet che è questo: addio mondo, non ce la faccio più. Pazzesco. Poi reazione immediata di amici, compagni eccetera, e poi ha ritwittato Mauro Sant'Ambrogio: ce la devo fare e ce la farò a vincere questa corsa grazie a voi. Continua a leggere l'agenzia. Dopo una notte a quanto pare insonne, 4 ore, ha aggiunto: non ho chiuso occhio, ho riflettuto su tutto, ho rischiato di fare una cazzata più grossa di me e penso non avrei risolto nulla, ma solo portato tanta sofferenza che mi sta vicino e mi vuole bene. Io ho i brividi, non so voi. 800 24 00 24, numero verde. Francesco Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo parlare di Moto Mondiale. Anch'io. Ho deciso di fare la canzoncina, però vabbè, parla di Moto Mondiale che magari è meglio. Vuole fare una canzoncina? Se vuole. No, perché qui c'era l'inno per la Radio 24 e... Sì, per Radio 24, anche per tutti i convocati. Se vuole, ecco, farlo. Faccio un pezzettino, provo. E come no, siamo qui apposta. Allora, così. Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sport su 24, come il calcio ad un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Ma grande, grande Francesco, mettiamo sotto un... Grandissimo, mettiamo sotto un bel rap, yeah, di quelli giusti. Ci vuole. Mettiamo, no, io volevo parlare solo del MotoGP. Praticamente penso che dalle parole che ho sentito di Lorenzo, che sarà una gara combattuta e non sarà così pulito nella guida, e Lorenzo se si troverà attaccato Marquez. Non dico da buttarlo giù, ma... Sì, siamo sugli eufemismi, perché? Sarà una gara abbastanza combattuta e la guida di Lorenzo non sarà molto pulita, dopo che è successo, come lei sa, questo. Penso anch'io, ecco. Lo penso anche se, se secondo lei... No, però si era fissato sull'angolo di piega massimo e c'era un vantaggio. Ah, sbagliato! È andato dritto Marquez. Da qua... No! L'ha tirato giù, incredibile! Incredibile, la moto continua a scivolare, pericolosissimo! Pericolosissimo, l'abbiamo vista dall'onboard, ma credo che non abbia fatto una buona manovra Marquez. Quando diciamo entra come se non ci fosse un domani, però aspettiamo a dare giudizi. Intanto Pedrosa fortunatamente sta sulle sue gambe. E quindi questo è il ben noto incidente. Si corre in Malesia, stanno andando fortissimo le onda, almeno sui primi exit poll, sul primo giorno di prove. Valentino Rossi quarto a quasi un secondo da Pedrosa, che è andato davvero molto forte. Ma su questo caso, che fa molto discutere, allora, incidente, inchiesta e alla fine un buffetto, un punto patente per Marquez. Lorenzo non è così d'accordo, lo dice Corino Ria. È vero che lui ha fatto qualche errorino nel Moto2 con Vilairotto, che con altro pilota in MotoGP, anche in qualche staccata a Jerez, però sempre dato la sua inesperienza. Io penso che al contrario, lui deve tenere qualche punto in più per il spettacolo che sta dando. Qualche punto in più, altro che un punto in meno. Roberto Ungaro, mio grande amico, direttore di Riders, quanto tempo? Ciao Carlo. Cosa ne pensi di questa vicenda? Buffetto che va bene, oppure soluzione molto italiana, molto politica? Gara molto pericolosa quella che ci prepariamo a vivere a Sepang? Da buffetto buffonata. È una buffetto buffonata, facciata. L'hai toccata piano? Sì, perché è la Spagna, la donna che organizza, che vuol far vedere che punisce anche un suo spagnolo, non serve a nulla. Primo, così distante di tempo così lunga non vuol dire niente, lo si punisce subito se si vuole, certo, fare. Immagina quante telefonate, quanti condizionamenti, quante cose possono accadere in questi, cosa sono, 20 giorni, incredibile. Sì, sì. Seconda cosa, non meritava, a mio avviso, perché ci sono stati episodi ben più eclatanti, la spallata a Jerez, quello poteva essere un caso, l'ha buttato quasi giù. Qui l'ha sfiorato col gomito e è un'entrata che è tipica nelle moto. Secondo me dobbiamo ringraziare il suo stile di guida, perché è l'unica cosa che ci tiene svegli purtroppo oggi nel moto mondiale. Speriamo che rimanga così, sarà la dura legge dell'asfalto a farlo ridimensionare. Quando prenderà la prima facciata grossa, auguro di no. Però è sempre stato così per tutti, anche Lorenzo, ve lo ricordate, all'inizio cos'era. Poi ha picchiato il muso e lui si è ridimensionato. Sì, ma io nella sostanza sono d'accordo con te, magari la nostra posizione è impopolare, però qualche corsa l'abbiamo vista e tu molte le hai anche fatte, quindi insomma non mi è sembrata una carognata così gigantesca. Poi si è rotto quella parte della moto di Pedrosa, ma su quel punto Marquez non aveva molte responsabilità, No, non c'entra niente, lì è chiamiamola pure sfiga di sì. Pedrosa, ma quello è un contatto come ce ne sono mille, noi non li vediamo neanche. Si è interrotto quel filo e dopo pochi metri abbiamo visto cosa vuol dire la mancanza dell'elettronica. Questo fa riflettere. In un moto mondiale che è sempre più regolamentato dall'elettronica, ben venga uno stile di guida come quello di Marquez. Certo, non deve mettere in pericolo la vita altrui, ma non è così, non è il caso di Marquez assolutamente. Secondo me è un po' ridicola questa punizione, è proprio di facciata e il mondo intero la vede così. Sì, anche Rossi l'ha vista in questo modo. Senti, ma che corsa vediamo a Sepang? Faranno sportellate sul serio? Sarà ancora più agonismo su quella pista? Anche perché è l'ultima occasione per Orge, Ci sono ancora 100 punti, Marquez è davanti di 39, tutto può succedere, però se non fa errori è suo il moto mondiale. Sarà, a me comunque è piaciuta la risposta, è piaciuta l'ironia di Lorenzo, che non lo manda a dire, e è come nell'arena, no? Dove c'è lo spettacolo, ci sicuro. Serve, ma mi è piaciuta anche la risposta di Marquez, perché ha detto: io non cambio il mio stile di guida, sono così, non c'è niente da fare, non mi sembra una cosa che... Quindi non si è assolutamente impaurito, secondo me vedremo una bella gara, speriamo. E Marquez deve correre senza pensare alla sua situazione di campionato, perché se pensi sbagli quando sei con le due o le quattro ruote a quel livello, devi fare la tua gara quasi per vincere e poi semmai accontentarti, ma alla fine. Comunque secondo me è grosso errore da parte della Dorna, cioè ne esce male con questa posizione. Sicuro, anche come tempistica, l'hai sottolineato tu prima in maniera perfetta. Roby, ti ringrazio. È assurdo. Sì. Grazie a voi e alla prossima, e speriamo una bella gara. Ciao Roberto Ungaro, direttore di Riders. Allora, siamo in chiusura, anche perché appuntamento fisso del venerdì, tra poco vi faccio riascoltare, grazie a Roberto Scaltritti, un riassunto vocale sonoro di tutto il meglio della settimana di tutti i convocati. Vi ricordo, abbiamo trovato la base. Calcio 24 che trasmette la passione, ogni sport su 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia, e di Radio 24 sulla tua maglia. Grandissimo, eh? Grazie a Michele Previato che ha trovato al volo la base da mettere sotto questa canzone d'ascoltatore che voglio presto riascoltare, eh? Voglio presto riascoltare l'ascoltatore e la canzone. Va bene, vi ricordo domenica 17-19 ci sarà Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, anche sottoscritto, e noi invece ci sentiamo da questi microfoni lunedì alle 2 e siete sempre tutti convocati. Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao. Saluto Claudio Lotito, presidente della Lazio. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Il problema qual è? Che questo crea, diventa, fa sì che le squadre diventino ostaggio delle società. Se è pura tifoseria, tra virgolette, vuole fare in maniera che di impedire alla gente di andare allo stadio, e basta che fa 50 gol ed è finita la frase. L'altro, Andrea Mandorlini, benvenuto, come va? Siamo partiti bene, siamo contenti. Si dice sempre che il difficile viene adesso, non lo so, però adesso ci godiamo questo momento, perché non è mai facile. Viva l'Italia, eh? Viva l'Italia. Viva l'Italia sempre. Dai, parliamo di Totti. Buon pomeriggio Evaristo Beccalossi. Ciao Evaristo. Totti credo che in questa condizione come fai a non portarlo? Uno così deve giocare, che è protagonista, sa fare ancora la differenza nonostante i 37 anni. Leo Turrini, inviato di QS, è mio amico. Purtroppo Adrian Newey non vuole venire a lavorare in Italia perché ha 9 cani e come disse una volta Monte Zemolo, che aveva contattato, in Italia non avete ville sufficienti per ospitare 9 cani. E andiamo a vincere, grandissimi, ciao! Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete, bello, eh?